brigido. Brecco, brecco, brecco, brecco, brecco. Hola, hola, hola, hola, hola, brecco, brecco, brecco. Vai, fischio, fate sentire, fischio. Manda. Hola. Che? Come hai detto, Giovanni? Chi sono? Sono uno nuovo, sto imparando un po', non so fare bene, capito? Finisci ragazzi, ma che sei? Sì, sono io in ascolto, prego. Buonasera Carlo, io sono uno nuovo, sto iniziando e non mi so districare meglio nella frequenza, capito? Ah sì, ti sento, ma un po' a tratti, ogni tanto scompare il segnale. No, c'è qualcuno che sta mettendo la portantina. Smettila, smettila. Sì, ti sento, ma non sanno mettendo la portante. No, la portante c'è. Dai, smettila per favore. Vai sul canale 20. Non c'è più nessuno dice, boh. In che senso anche ahi oia e beh e gioca col pupazzetto, gli piace, ride e beh sono colorato, però non glielo dare in mano ancora anche perché non si sa mai, è ancora piccolino perché ci mette la bocca, capito? Poi glielo vedere solo le stelline, boh. Io gliel'ho preso per farlo drumming perché i bambini si addormentano con queste cose qua, li rilassano. E cos'è? Ma poco a fa. Io sto arrivando adesso, mi attirò a Marchetto, ma sono andato a accompagnare un amico che l'hanno tamponato, con la ne faccia tutta la macchina da ridio. Questo qua, questo imbecille, visto dove c'è la farmacia di rifiuti che c'è quella discesa davanti, lui era parcheggiato, era dentro la macchina, e ha inteso, boom, boom, ha messo tutto. No, no, già si è fermato e ha colpito le mani a gas, è barrato la macchina. È sceso dallo stop, corsi correndo senza rallentare, capito? Lo stop, c'è uscito dritto, ne ha messo prima una macchina che stava incrociando e poi ha preso anche questa di questo amico mio che era parcheggiato, che stava andando in farmacia e l'ha facciato tutta la macchina da ridere, è entrato tutto lo sportellone di dietro, la macchina l'ha portata via carro attrezzi, quindi sono andato a accompagnarlo a casa. Ma infatti dice che si è avvicinato ai vigili urbani e gliel'ha detto, secondo me questo qui è cotto perché ci è sceso dritto, sparato. Lui ha detto che prima ha sentito un tocco perché si è sbattuto con un'altra macchina prima e poi si è andato addosso a lui. Sara, oh mamma mia, devi stare attenta, e cosa si è fatto? Ah, hai chiamato i vigili e lui ti fa anche il sud, aspetta che stanno chiamando al telefono.